Ma appunto oggi sulle frequenze arriva, intervistiamo Giovanni Marinelli, lui è un cantautore pugliese trapiantato a Bologna, un po' come tanti di noi trapiantati a Bologna. La sua storia musicale nasce tra le mura di casa, dove il piano e la chitarra sono sempre a disposizione. Il suo primo progetto musicale ha all'attivo tre dischi che partono dal rock italiano e approdano ad una sperimentazione garage e acida. E con il nuovo e più recente progetto solista, in collaborazione con l'etichetta Manita Dischi, Marinelli pubblica i brani Collezione e T-shirt, rispettivamente a gennaio e a marzo di quest'anno. Che sono i due brani che abbiamo appena ascoltato. Esattamente. E invece, lo scorso 23 ottobre è uscito il suo nuovo inedito dal titolo James Dean. James Dean è il terzo inedito di Marinelli, un brano semanticamente sospeso, quasi in bilico tra un ritmo incalzante che vuol farci sorridere, una malinconia di sottofondo che contrasta per immagini con la sonorità trascinante. Questa armoniosa contraddizione si traduce in un continuo scontro tra caldo e freddo, luce e ombra, città e provincia, immagini, sensazioni e pensieri distanti che si intrecciano attraverso le parole e la voce del cantautore Giovanni Marinelli. E a proposito appunto di parole distanti che si intrecciano, diamo la voce a questo cantautore che è Marinelli, che è in collegamento telefonico con noi. Ciao! Ciao ragazzi, ciao Giovanni. Ciao a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Come stai? Bene, dai, diciamo bene, bisogna dire sempre bene in questo momento, altrimenti ci si inizia a lamentare e non va bene. Esatto, noi ti aspettavamo qui, non si è potuto fare, ma speriamo di poterlo fare molto presto, però è già bello che riusciamo a raggiungerci almeno con la voce. Almeno telefonicamente, esatto. Ma sarebbe infatti stato bello venire lì. Sì. Ci siamo mancati di poco. Ragazzi. Di poco, esatto, perché è stato cambiato tutto ieri sera velocemente, insomma, dopo che Conte ha parlato, si può dire, dopo che Conte ha parlato nuovamente, ormai scandisce questo 2020, Conte. E a proposito di Conte, noi ti chiediamo, come hai vissuto questo periodo difficile? Insomma, sappiamo tutto quello che sta succedendo, come lo stai vivendo, come lo sta vivendo la tua musica? Lo sto vivendo con alti e bassi, devo dire la verità, perché a parte la musica io ho anche un locale dove si fa musica, qui a Bologna, quindi lo sto vivendo da entrambe le parti. E con degli alti e bassi, perché sembra un po' il gioco del bastone e la carota, quindi intanto sembra che si sta aprendo qualcosa, possiamo ricominciamo, poi ritorniamo dentro. Anche musicalmente è stato un po' problematico, perché appunto era in essere il fatto che uscisse il disco ad ottobre, invece abbiamo deciso, visto che non si può andare in giro a promuoverlo, di far uscire un altro singolo, e penso a questo punto faccio uno spoiler per la prima volta, dovrebbe uscire un EP a dicembre, quindi abbiamo ridotto l'uscita, facciamo uscire un EP a dicembre sotto Natale, e per il disco aspetteremo il 2021. Quindi insomma lo stiamo vivendo alla giornata, stiamo prendendo decisioni di settimana in settimana. Conte parla e noi facciamo riunioni per decidere cosa fare. Conte parla, io decido se il locale sta aperto o sta chiuso, insomma un po' così, altalenante. Ma ti dirò che noi abbiamo passato la mattinata qui in redazione a fare la stessa cosa, quindi capiamo bene, ma soprattutto ci stiamo attivando anche per dar voce a tutti i locali, a chi vive di musica, e capire insomma come portare avanti. Ed effettivamente anche la tua idea di passare a un EP è una cosa molto bella, sotto l'albero di Natale. Sì, esatto, anche perché tutto il lavoro fatto è, diciamo, già pronto, non mi andava di tenerlo ancora in stand-by, e uno perché è frutto di un percorso che si è anche chiuso, diciamo, sia artisticamente che umanamente, come stimolo per scrivere questi brani, quindi avevo voglia di, diciamo, di darlo in pasto anche agli ascoltatori. E nel frattempo ho scritto anche altra roba, quindi a questo punto ho detto facciamo due uscite diversificate, una a Natale, una magari in primavera, prima dell'estate, ma diamo alla luce quello che ho già scritto, registrato, già pronto, perché mi sembra giusto farlo anche per me. Devo liberare la mia testa da questo lavoro per potermi mettere su altro. Beh, giustissimo, anche perché penso che cioè scrivere in questo periodo abbia delle conseguenze, quindi magari far uscire cose scritte adesso, magari fra qualche mese, perde anche un po' l'impatto. Sì, anche se il momento, ti dico la verità, almeno personalmente, ma anche confrontandomi con altri amici musicisti, soprattutto il momento proprio del lockdown, fino, diciamo, da marzo fino a maggio, giugno, ci sono stati pochi stimoli creativi, almeno per me e anche per altri, un po' come dire, anche la creatività si è fatta carico del periodo abbastanza grigio ed è un po' sfumato a tutti, almeno io ho scritto pochissimo pochissimo, ho solo sistemato delle robe che erano, diciamo, già aperte da un po', ma sono riuscito a scrivere davvero poco. Le uniche cose che ho scritte in estate, quando un po' sembrava tutto più tranquillo. Ecco, a proposito della tua ultima uscita, ciao Giovanni, sono Riccardo, ci siamo visti al cortile, nel tuo locale, che è fantastico. Tu definisci James Dean, il tuo pezzo, la canzone estiva dell'inverno, ci spieghi un po' questa definizione, parlaci un po' del pezzo, insomma. Allora, ti spiego un po' perché questa definizione, che mi è venuta veramente in maniera istintiva ascoltandola quando mi chiedevano dall'ufficio stampa di scrivere un po' due righe sul brano per presentarlo col comunicato, e di comune accordo anche con, insomma, con l'etichetta, con i ragazzi dello staff, ci è piaciuta subito, perché è un pezzo frutto di molti contrasti che rispecchia anche il periodo in cui ho scritto i brani che andranno poi ad uscire, anche gli altri, oltre a quelli che sono già usciti. E James Dean è veramente pieno di questi contrasti. È nato da un episodio che mi è accaduto davvero Natale del 2018, e sono uscito per andare a comprare delle lucine che volevo mettere in casa per dare un senso al Natale, che amo, ma comunque non mi sbatto molto per creare l'atmosfera in casa mia. E mentre ero in giro, mi è venuta una voglia irrefrenabile di prendere un treno e andarmene al mare, che amo tantissimo essendo nato al mare, e vivermi il mare d'inverno, che amo. Anche quando vado giù, spesso nel periodo natalizio, in altri momenti dell'anno, mi piace fare una passeggiata, sedermi al mare, perché mi mette pace. Quindi ho avuto questa folle idea di prendere un treno e andare al mare, che non ho fatto, ma mi sono immaginato, tornando a casa, poi ho buttato giù questo testo, mi sono immaginato davvero di aver preso quel treno, di arrivare sul mare e vivermi i contrasti dovuti appunto a un periodo in cui sembra tutto brilluccicante, le luci, i colori, ma in realtà dentro io avevo molta malinconia in quel momento. Quindi ho ragionato tutto su questi contrasti. E James Dean, la citazione di James Dean all'interno è anche, diciamo, un po' frutto di questi contrasti che ho visto sempre nella figura di James Dean, cioè questo figo, questo ragazzo figo, bello, ribelle, dannato, sistema, contro tutto ciò che sistema, soprattutto nell'America degli anni 50, ma in realtà anche poi per l'icona che è diventato, per la fine che ha fatto, diciamo, per la sua vita privata, mi sembrava una persona invece molto carica di, anche lui, di fragilità, di paure, di insicurezze, che si rivestiva di questa maschera. Quindi mi piaceva l'idea del contrasto all'interno del brano e anche della figura di James Dean come contrasto da citare. Esatto, il ribelle senza motivo, Giovanni, esatto, giusto? Esatto, questo per dire un po' il significato del brano. Ma l'idea di pezzo estivo dell'inverno è perché non ho fatto uscire un pezzo estivo, e James Dean, col ritmo che gli abbiamo dato poi arrangiandolo, nonostante il tema non sia proprio estivo, da reggaeton, da ballare in spiaggia, ha questo ritmo trascinante che mi piaceva, appunto, l'idea di dire potrebbe essere un pezzo estivo se parlasse di mare, sole e cocktail, ma in realtà è un pezzo estivo per l'inverno, quindi con un tema malinconico, c'è il mare, ma c'è quel ritmo che ti trascina un po', ti fa anche muovere i fianchi, diciamo, per essere più delicati se lo stai ascoltando. Beh, direi descrizione chiara e molto interessante. Tra poco, come detto precedentemente, trasmetteremo questo brano sulle nostre frequenze di 103.1. E invece adesso io ti chiedo, con quali aggettivi useresti per descrivere, diciamo, in generale il tuo stile, la tua identità come musicista? Ti mettiamo un po' in difficoltà con questa domanda. Sì, un po' in difficoltà perché diciamo che ho avuto molti cambiamenti durante la mia carriera, tra virgolette, da musicista negli ultimi 10 anni, e quindi non riuscirei a trovare degli aggettivi per definirmi. Cioè, ho capito una roba, l'ho capita 2 o 3 anni fa quando mi sono messo a scrivere i nuovi brani, che ho bisogno io, in quanto musicista, per quello che scrivo e per quello che canto anche, di assecondare molto il periodo personale che sto vivendo, quindi quelle che sono le mie emozioni del momento, quindi senza starmi a radicare nell'idea di faccio rock italiano, come ho fatto, per dire, in 2 dischi in particolare, faccio del rock, quindi mi attengo alla mia linea, sono coerente con quello che ho deciso di rappresentare come artista. È stato un momento in cui ho avuto delle emozioni, insomma, un mio periodo particolare in cui mi sentivo molto malinconico, in cui ero molto intimista, ho passato molto tempo da solo, e ho deciso di parlare molto di queste mie emozioni, anche legandomi a ad altre persone, ad altri fatti, a situazioni esterne o a cose che leggevo e che mi stimolavano. E quindi ho deciso di assecondare quello che provavo e metterlo in musica, senza, togliendomi un po' i preconcetti che avevo su di me: devo fare il rocker, devo continuare a fare rock. Questo giro il disco molto più pop, molto più vicino al cantautorato e anche retro vintage, se vogliamo, con lezione, una fortissima connotazione. Per me, per quanto mi riguarda, mi è stata molto stimolata da Lucio Battisti, diciamo, dai suoi ritmi, dal suo modo di fare musica. Il paragone può sembrare azzardato, ma ti dico la mia influenza nel buttare giù quel brano. E quindi mi sono lasciato andare e non riesco a categorizzarmi con tre aggettivi. Ho deciso che voglio assecondare il mio momento, il mio stato d'animo, e scrivere. Magari il prossimo disco sarà reggae, non lo so, se mi sentirò bello giamaicano. Beh, allora noi diciamo che per il prossimo disco ci aspettiamo qualsiasi cosa, ma cogliamo anche l'occasione che stiamo, insomma, chiacchierando insieme, che il 30 ottobre i lavoratori dello spettacolo scenderanno in piazza per l'assenza spettacolare, risorse certe per l'emergenza e la ripartenza sino a tutto il 2021. Ti vogliamo chiedere anche, insomma, relativo al Cortile Caffè, stiamo facendo questa inchiesta anche di tutti i locali, principalmente bolognesi, come stanno vivendo questa situazione, cosa stanno cercando di fare. E quindi allora stiamo cercando adesso, purtroppo stiamo cercando di capire se fare qualcosa o meno noi come realtà Cortile Caffè. Ho letto di questa manifestazione, ne ho letto proprio stamattina, ne leggevo qualcosa, quindi volevo informarmi per capire se partecipare, come partecipare, finalità, insomma, dove si arriva, e soprattutto spero che non sia politicizzata, soprattutto. E ti dico che come Cortile Caffè, ma posso parlare per la categoria di chi fa il mio lavoro, siamo stati i posti che più hanno avuto attenzione a far rispettare le regole. Noi siamo passati da una capienza di 200 persone a pieno regime ad averne 60 sedute, quindi con tutte le attenzioni del caso. Abbiamo continuato a fare dei live, anche se piccoli, non tutte le sere, 3 giorni su 5, ma abbiamo cercato di portare avanti il nostro lavoro per noi, ma anche per gli utenti, perché comunque dopo un periodo del genere poter uscire la sera, ascoltarsi un po' di musica, è fondamentale anche per la sanità mentale di tutti quelli che sono stati chiusi in casa. Assolutamente. Per ritornare a una pseudo normalità. Adesso con la chiusura alle 18 siamo un po' in difficoltà, perché anche se qualcuno ha provato a dire ma reinventatevi di giorno, non è facile, non è così immediato passare da essere un locale serale dove si fa musica che apre alle 19 e chiude alle 2, passare ad aprire alle 7 e fare delle colazioni. Non è facile, soprattutto a me darebbe anche fastidio andare a fare concorrenza a tutti quei piccoli posti che fanno veramente quell'attività di bar diurno, che ci vivono con i 50 caffè. Andare a toglierne 20 non mi sembra giusto, corretto, soprattutto in questo momento. Quindi reinventarsi non è facile in un momento così, stiamo a vedere cosa succede, se possiamo solo stare a vedere cosa succede. Esatto, ma nel frattempo noi, insomma, vi diamo piena solidarietà e passate quando volete sulle frequenze di 103.1, come tra pochissimo passa, ritornando alla tua musica, il tuo ultimo singolo. Però noi ti ringraziamo, perché in realtà è stata una chiacchierata molto vasta in cui siamo riusciti a toccare molte tematiche diverse. Ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, spero di risentirvi presto. E speriamo di vederci presto qui in via Zanardi. Esatto. Speriamo. Ciao Giovanni, grazie, ciao. E ci ascoltiamo James Dean. Grazie, ciao. Ciao, grazie. Sono uscito per comprare gli addobbi di Natale, ma sono andato alla stazione, ho preso un treno per il mare. Quanto freddo fa in Riviera, anche con le luci accese. Quando il mondo è a colori, ma a me sembra in bianco e nero come un film che ho visto oggi in TV con James Dean e non ricordo chi più. Guarda che bella la notte vista da qua, ti prego dimmi che è bella anche se non siamo in città. E non è vero che il mare è d'inverno, è triste, non sono d'accordo. Mentre ti abbraccio non senti che caldo che fa. Quanti gradi ha questa birra? Mi riscalda malapena. Ti dovevo dare retta e non mettere le All Star. Quanto freddo fa stasera e questa sabbia che non scotta, come quel caffè a Parigi nel bicchiere monouso e quel film visto oggi in TV con James Dean e non ricordo chi più. Guarda che bella la notte vista da qua, ti prego dimmi che bella anche se non siamo in città. E non è vero che il mare è d'inverno e triste, non sono d'accordo. Mentre ti abbraccio lo senti che caldo che fa. E ti chiedo in silenzio, alla luce del buio, se lo senti quel rumore, forse il mare o forse il cuore. E se resti in silenzio, quel rumore è un rasoio. Con James Dean, non ricordo chi più. Guarda che bella la notte, vista da qua. Ti prego dimmi che bella anche se non siamo in città. E non è vero che il mare è d'inverno e triste, non sono d'accordo. Mentre ti abbraccio lo senti che caldo che fa. Mentre ti abbraccio lo senti che caldo che fa.